Europa 24. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli. Dunque, il piano Renzi e le riflessioni di Moscovici, che per mestiere deve tenere d'occhio i conti complessivi e il rispetto delle norme del 3% e non solo, e dunque dei bilanci europei. Da parte dell'Unione Europea è molto prematuro pensare ad una reazione. Insomma, Pierre Moscovici, commissario europeo agli affari economici, prende tempo, dice: esamineremo la questione sulla base di quanto proporrà il governo italiano e sulla base delle nostre regole. È presto per una reazione dettagliata, non abbiamo visto l'analisi e non c'è stato scambio con il governo italiano. Così il commissario europeo Moscovici spiega di non aver ricevuto dall'Italia alcuna comunicazione sul maxipiano di riduzione fiscale annunciato sabato da Matteo Renzi, un programma con cui il premier punta a ridurre le tasse di 45 miliardi di euro nel 2016-2018. Per trovare le risorse probabilmente dovrà chiedere altra flessibilità all'Europa, ovvero un ulteriore sconto sui target di deficit da raggiungere, facendo leva sul nuovo pacchetto di riforme che verranno presentate a Bruxelles. Tutte concessioni già chieste e ottenute dall'Italia, ricorda il responsabile europeo agli affari economici. Padoan però insiste: il piano serve per crescere. L'intervento sulle tasse fa parte di un processo di radicale modernizzazione del paese, avviato con le riforme strutturali. Deve essere un processo al servizio dei cittadini, deve creare ricchezza e lavoro, soprattutto dopo la grave crisi che abbiamo attraversato in Italia e in Europa. La porta comunque è aperta. Esamineremo le cose in funzione di quello che presenterà il governo italiano, conclude Moscovici. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E vi ricordate piuttosto del piano Juncker? C'è stato un periodo che ne parlavamo praticamente tutti i giorni, il piano per gli investimenti, la crescita, periodo che corrispose di fatto all'insediamento del nuovo presidente della Commissione Europea. In questo senso ci sono novità. Il servizio. Obiettivo 315 miliardi. Con la cerimonia ufficiale a Bruxelles ha visto definitivamente la luce il fondo EFSI per la realizzazione del piano Juncker. L'obiettivo è avere il piano per la crescita e gli investimenti in Europa pienamente operativo da questo autunno. In molti ricorderanno questo piano, simbolo e portabandiera della presidenza Juncker all'atto del suo insediamento alla guida della Commissione lo scorso novembre. Un progetto di matrice keynesiana pensato per sganciare l'Europa dalla mera logica del rigore dei conti. 8 mesi dopo, col piano ancora preoperativo, i soldi messi sul tavolo dagli Stati membri sono pochi, 42 miliardi, cui aggiungere i 21 intavolati dalle istituzioni comunitarie come base di partenza. Arrivare a un effetto leva in grado di moltiplicarli fino a raggiungere gli oltre 300 miliardi complessivi appare ancora un po' lontano e utopistico, ma i giochi veri inizieranno dopo l'estate. Ieri è stato il momento delle firme. Commissione e Banca Europea degli Investimenti hanno apposto le loro. La priorità assoluta è aumentare i posti di lavoro, ha spiegato il vicepresidente della Commissione, Katainen, mentre Juncker ha rilevato il perdurante basso livello di investimenti delle imprese. Anche se la priorità resta coinvolgere i paesi comunitari. Solo 9 governi hanno contribuito finora, nonostante i finanziamenti nazionali al piano Juncker verranno esclusi dal computo del deficit e nonostante questi finanziamenti non saranno considerati aiuti di Stato. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, con questo è tutto per oggi, per questo appuntamento con Europa 24. Naturalmente torniamo domani alla stessa ora. Un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.